Calci Convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Sì. Ciao Carlo, sono Luciano. Come stai? Uè, come va? Tiriamo avanti, cosa vuoi fare? Ma no, come tiriamo avanti? Ormai è fatta. Vera, amico mio, cosa vuoi fare? Senti, ma ormai è fatta. Mi hanno tirato di mezzo perché non avevano altro, sai, questi qua. Ma no, non dire così, sono molto contento. Comunque, ormai è fatta. Non lo so, vediamo. Bisogna ancora... Ci sono ancora dei colpi di coda che faranno, ma tanto ormai... A me ne hanno fatti di tutti i colori, più di questo che dobbiamo fare. Questo lo so, senti, ma questo Dragnelli io non lo capisco. Non lo capisco proprio, ma perché ti attacca? Ah, io non lo so. Io ho avuto solo rispetto per lui, per il suo mondo, però... Ma se non lo sai tu, come faccio a saperlo io? C'è una persona che sta a Londra invece che una brava persona, io credo che, non lo so, non mi ha detto mai niente. Non è suo amico lui, mi pare, sì, no? Io sto con le montagne! Come avete sentito, apriamo con la protesta notav. Ciao a tutti, lui era Carlo Tavecchio, candidato alla presidenza della Federcalcio, l'altro sembrava, ma non era, Luciano Moggi, in uno scherzo telefonico che è dell'altro giorno alla Zanzara con Giuseppe Cruciani, che ha fatto il giro d'Italia, sembrava Luciano Moggi, era invece bravissimo Ando Mercù. Ciao Pierluigi Pardo, come stai? Boh, chi lo Eccolo! Sa? Come stai? Bene, tu? Benissimo, benissimo. Sì, ho sentito il grande momento, la persona che è a Londra, lo sappiamo chi è, no? La persona? Che è a Londra, è Giraudo. Sì, no? sì, sappiamo chi è, dunque sappiamo che lui era Carlo Tavecchio, l'altro era, non era Luciano Moggi, ma sembrava, e la regia occulta era del solito Giuseppe Cruciani. Oggi leggo tutti... Leggendo tutti i giornali, insomma, l'argomento rimane su tutte le prime pagine, su tutte le aperture. Sì, Repubblica. Ieri ha parlato, ieri Tavecchio ha parlato. Spiegato, insomma, io. La gaffe di Tavecchio è un caso internazionale. FIFA e Unione Europea chiedono spiegazioni al razzismo fuori dal calcio. Repubblica, Corriere della Sera, Tavecchio tira dritto. Chiedo scusa, ma ribadisco il mio impegno. Gazzetta dello Sport, FIFA boccia Tavecchio, le prime crepe nella Lega, il problema non è soltanto il razzismo, scrive il vice direttore Umberto Zappelloni, posso andare avanti ma mi fermo qui e saluto invece Andrea Abodi, commissioner, mi piace chiamarlo così, della Serie B. Buongiorno. Buongiorno a voi che ci ascolta, affermazione impegnativa, descrizione che mi responsabilizza. Mi piace, la parola commissioner. Lei Abodi sa di essere il nostro candidato ombra. Di tutti i convocati, no, sto scherzando, ma lei perché non ti candida? No, intanto è piacevole essere convocati da voi, perché qua la convocazione è già un motivo di soddisfazione, perché il brutto è quando uno non viene anche convocato e rimane fuori rosa, quindi essere già parte della rosa è un motivo di soddisfazione. Dopodiché è anche per certi versi in questa fase, non dico piacevole, ma insomma comunque abbassa il profilo dello stress poter pensare soltanto ai contenuti e non... Alla corsa, alla poltrona, ecco, al ruolo. Sì. Scusi, lei fa capire, al di là della battuta infelice, che cosa cambia, cioè, tra i due candidati? Dovessimo fare una spiegazione giornalistica alle persone per capire come cambia la federazione se vince uno o se vince l'altro. Ci può aiutare? A cioè, traduco dal pardo cellulare che non si sente benissimo. Qual è? No, sono riuscito a capire. Ha capito. Io, quindi, bene, quindi allora vuol dire che ci siamo. La cosa importante è che capiscano tutti quelli che ci ascoltano, soprattutto. Ma guardi, per me la candidatura di Tavecchio rappresenta un elemento che può sembrare anche paradossale nella sua definizione di novità, perché per la prima volta nella storia, almeno quella recente, le quattro leghe stanno dialogando. Può sembrare paradossale, perché il nostro dovrebbe essere un sistema, invece fino ad oggi è stata la somma di una serie di soggetti un po' disarticolati, ognuno con le proprie idee, le proprie titolarità, le proprie convinzioni, ma non abbiamo mai collaborato se non a fine stagione, quando ci siamo sempre scambiati le squadre retrocesse e promosse. Questa candidatura, non so se sia un miracolo di Tavecchio, ma comunque questa candidatura ha prodotto già un effetto che è propedeutico a tutti i cambiamenti, a tutto lo sviluppo, a tutte le tutto l'ammodernamento che dobbiamo apportare al sistema. Ne siamo consapevoli, le cose stanno sul tavolo, dipende a questo punto da noi. Io ho detto nei giorni scorsi, e scusate se mi dilungo, le leghe hanno il 68% dell'azionariato della federazione, è ora che dimostrino di essere capaci di dare un contributo non soltanto nei numeri, ma anche nelle soluzioni. Questa caratteristica ce l'ha più Tavecchio che Demetrio Albertini, che è un dirigente sportivo, ancorché sia stato calciatore, ma questo certamente non è una colpa, anzi può essere anche un elemento a suo favore, che forse ha bisogno ancora di maturare esperienze di gestione, che sicuramente non riesce a catturare il consenso all'interno delle componenti leghe, e quindi la differenza politica, che la gente magari conosce e capisce poco, è questa. E nella pratica io sono convinto che in due mesi noi siamo in grado di fare quello che non abbiamo fatto in 10 anni. Sì, io però ovviamente vorrei portare il discorso anche su temi di stretta attualità. Allora, io ripeto quanto ho detto nei giorni scorsi e mantengo la mia posizione: non ho mai pensato che Carlo Tavecchio sia razzista, ma parole pubbliche pronunciate in una sede pubblica non possono non avere un peso, punto primo. E punto secondo, così risolviamo entrambe le questioni: non è mai capitato di avere uno scarto di questo tipo tra la volontà delle componenti calcistiche e la volontà dell'opinione pubblica, perché in questo momento, se il presidente Affercalcio venisse eletto a suffragio universale, finirebbe 10-0. Sì, questo è vero, e credo che sia un'altra sfida che dobbiamo cercare di intraprendere e anche vincere, nel senso che noi, non soltanto per questo motivo, se me lo consente, noi abbiamo bisogno di recuperare e meritarci la fiducia della gente, perché non è scontato, non sta da nessuna parte che la gente debba per forza seguire il palazzo. È una concezione che riguarda il paese, che riguarda le istituzioni tout court, non soltanto quelle calcistiche. Se noi dimostreremo con la volontà di queste quattro leghe, e poi anche cercando di coinvolgere le componenti tecniche, di rimetterci in asse con i sentimenti, le sensibilità e le esigenze della gente, quel gap si colmerà abbastanza velocemente, perché la gente ha bisogno di fatti concreti, non di chiacchiere. No, questo siamo d'accordo, che le azioni siano più importanti delle parole, non ci sono dubbi, e sul fatto che se poi Tavecchio diventerà presidente tutti dovremo fare uno sforzo di riazzerare questa brutta pagina e di ripartire da zero, io mi metto per primo, cioè cercherò poi di giudicarlo per quello che farà e non per questa battuta. Ma non c'è un problema di comunicazione, posso dirla questa cosa? Io lo sentivo anche ieri Tavecchio, perché la comunicazione è un dettaglio nella vita, si può vivere benissimo anche senza essere grandi comunicatori. Beh, insomma, adesso no, Pier. Però, adesso insomma, non è proprio così. Ecco, dico, una figura così pubblica, lo dico veramente con rispetto, perché poi alla fine, al di là di tutto, ho anche capito che probabilmente questa gaffa è nata proprio da questo, cioè da una difficoltà a esprimersi in un contesto pubblico, non rendersi conto perfettamente della risonanza che poteva avere. Quindi, da questo punto di vista, al netto del fatto che è una frase orribile, però quasi mi dà anche un senso di tenerezza per chi comunque si è trovato in una cosa più grande di lui. Però questo è un punto fondamentale, insomma. A Bodi, lei per esempio, lo dico per piaggeria, lei è un comunicatore, Malagò è un comunicatore, poi dirigente sportivo deve saper fare altre cose, non soltanto comunicare. Però oggi è importante, però oggi è importante. Allora vi chiedo un attimo di pazienza, così rispettiamo il clock e non abbiamo tempi di tempi. Traffico, poi la risposta di Andrea Bodi, ripeto, commissioner della Lega B, della Serie B, oggi con noi. Dopo il traffico la risposta. Guardi, io ho fatto un'uscita infelice in un contesto di una presentazione di un programma che durava da più di un'ora. Ammetto, ho sbagliato e ho chiesto 2, 3, 10, 20 volte scusa. Dal momento in cui io ho chiesto scusa non mi sono liberato, perché i fatti restano, ma un problema è chiarissimo. Carlo Tavecchio, per il suo vissuto di uomo privato e di uomo pubblico, ha tutto da dimostrare che poche persone, lo dico con arroganza, hanno fatto quello che ho fatto io per il terzo mondo. Tutti convocati. Per fare razzismo o contro razzismo ci sono solo i fatti, ne dirò solo uno, evitando di raccontare la mia storia africana o la storia di altri paesi, vedi il Sud America e vedi l'Asia. Il provvedimento che ha messo in condizioni 10.000 soggetti extracomunitari di poter essere schierati in campo. Abbiamo società che hanno 11 extracomunitari su 11. È stato quello preso un anno e mezzo fa dalla Lega Dilettanti che io ho l'onore di presiedere, laddove un soggetto riveniente dall'estero, ancorché non tesserato per la federazione, può iscriversi senza ulteriori orpelli. Prima bisognava che il padre fosse, avesse uno stipendio, che avesse fatto la scuola pubblica, che non fosse entrato clandestinamente. Oggi 10.000 persone extracomunitari giocano nel campionato di calcio dilettantistico. Io sono stato in Africa a fare squadre di calcio e campi di calcio. Ho sbagliato, mi sono trovato più importante di Sua Santità, del Tour de France e della guerra in Palestina. Non ero abituato io a questo. La lotta non si ferma però, nuove iniziative di disturbo sono continuamente allo studio. Allora, Andrea Bodi, commissioner della Lega B, con noi, con Pierluigi Pardo, più importante di Sua Santità della guerra in Palestina del Tour de France. Parlavamo di comunicazione. Sì, però non ero abituato, e questa io lo dico, ma lo dico veramente a questo punto, al di fuori dei giochi, anche perché detto fra noi lo ribadiamo a prova di, cioè a noi non è che ci cambia niente, chi fanno presidente, posso fare anche il signor Cruciani, non ci cambia nulla nella vita, chi fanno presidente federale dal punto di vista nostro privatistico, di un programma o di un giornalista. È questa frase finale che secondo me è vera, cioè, non ero abituato, e non ero abituato significa che non ero abituato a gestire queste pressioni, che non ero abituato a gestire le conseguenze di una frase come questa. Questo è il mio grande dubbio. Chiediamola a Andrea Bodi. Non è razzista, va bene, ok, non è razzista. Ci mancherebbe altro, se lo fosse, insomma. Aspetta, fammi sentire cosa dice Bodi. Fermo restando che sull'argomento, che è talmente delicato, certamente non bisogna avere né tentennamenti né dubbi né equivoci, al netto quindi di questa considerazione che deve rimanere sempre agli atti, perché sennò sembra poi che uno si metta un po' nella terra di nessuno, io credo che invece questa sua affermazione da un lato faccia emergere tutta la sua semplicità e la sua umanità, che non è certamente uno dei requisiti che viene richiesto per ricoprire un ruolo così delicato e importante, però non è neanche un fattore che va in qualche maniera al quale va dato un significato negativo. Non era abituato certamente a questa pressione, ancorché abbia gestito ormai da tanti anni una Lega che ha la sua visibilità e devo dire ha gestito da professionista la Lega Dilettanti. Quindi io credo che valga la pena dargli la chance di dimostrare la capacità di armonizzare questo sviluppo di cui abbiamo bisogno. Lui è consapevole per primo dei suoi limiti e credo che questo sia un fattore professionalmente e umanamente indispensabile, perché molto spesso ognuno di noi, pur ricoprendo ruoli, si dimentica dei propri limiti. Lui ne è consapevole, è scivolato, come abbiamo detto. E lei l'ha sottolineato l'altro giorno, mi pare di ricordare. È stato ammonito, diciamo che questo calcisticamente potrebbe essere un cartellino arancione, tra il giallo e il rosso, però mi sembra anche che questo processo, che è così violento da incidere profondamente anche nella persona, sia ingiusto. Ho idea che ci sia forse qualcosa che vada anche oltre, al di là della sensibilità comune, del comune sentire, perché avvertiamo tutti, riceviamo mail, tweet, quindi c'è questo disagio. L'opinione pubblica è questa, va in questa direzione, ma poi c'è anche un'altra considerazione: nel momento in cui la lotta verbale al razzismo è così forte e così sentita, a suon di curve chiuse come è stato in questa stagione, Cioè, il dubbio un po' di tutti è come potrebbe la Federcalcio con Tavecchio presidente parlare di questo argomento e assumere anche delle decisioni impegnative, dure. Insomma, si pone anche un problema di questo tipo, no? Io ho detto e l'ho scritto che i primi a dover dare l'esempio, ma è talmente scontato, dobbiamo essere noi, io per primo, i dirigenti, perché dobbiamo rappresentare un riferimento. Se ricopriamo dei ruoli non è soltanto per il prestigio, il blasone, anche i riconoscimenti personali, ma perché abbiamo la possibilità di testimoniare alcuni principi, alcuni valori. Devo dire che siamo un popolo molto orientato alle chiacchiere, molto orientato a stabilire peraltro le regole per gli altri. Quando poi dipendono da noi le regole, siamo un po' più accondiscendenti. Dopodiché il tema del razzismo, io vorrei anche aprirlo questo argomento, questo confronto con le tifoserie, no? Perché ho idea che in alcuni casi abbiamo regalato alcune iconografie al razzismo, anche se il razzismo non c'è. Sì. In altri casi abbiamo generato equivoci, configurando situazioni che in nessun'altra parte d'Europa sono state configurate. Quindi poi a essere più realisti del re a volte ci si fa male, e noi siamo molto allenati su questa tematica, no? Siamo tra i campioni del mondo. Allora, io mi auguro che ci sia invece dal 12, a partire dai rapporti con le altre componenti, per arrivare poi al mondo della tifoseria, un grande patto per il calcio italiano, perché vogliamo tutti rilanciarlo, vogliamo tutti recuperare competitività, dignità. Ci sono le condizioni, non mancano le risorse finanziarie, manca probabilmente un po' di interazione tra il capitale umano, manca la capacità di usare bene queste risorse, vale sia sul versante della spesa, che poi determina una diversificazione anche dei ricavi. Quindi io credo che le condizioni siano irripetibili. Questo è il mio pensiero. Sì. Se lei non si candida a presidente della federazione, ma chi è il suo CT ideale? Ah no, io non gioco. In questo gioco non partecipo, qui rimango fuori dallo stadio, neanche convocato, perché i ruoli sono importanti, perché le titolarità sono importanti. Voi è giusto che facciate questo lavoro anche alimentando il dibattito, i nomi poi più o meno sono quelli che si conoscono. Io ho detto nei giorni scorsi che per me è più importante partire dal progetto sportivo, partire dall'identikit, da che caratteristiche deve avere, personali, professionali, culturali, psicologiche. Ecco, più un allenatore blasonato, esperto, o più un allenatore, diciamo, federale, giovane? Beh, intanto deve essere un selezionatore, quindi deve essere un soggetto pronto a fare un mestiere diverso da quello dell'allenatore, che vive non di gestione quotidiana, ma vive di una gestione, diciamo, da lontano, che vive del rapporto con gli altri allenatori delle squadre dove giocano i selezionabili, che lavora e collabora con tutta la filiera giovanile, perché quel processo lì può far arrivare più facilmente, più velocemente i giovani anche in nazionale maggiore. Quindi la selezione, magari il miglior allenatore non potrà essere il miglior selezionatore, potrà essere più adeguato un allenatore di profilo leggermente più basso, ma che abbia queste caratteristiche. Senta, io volevo chiederle ancora questo. Leggermente. Le volevo chiedere. No, almeno la mia idea è leggermente, non di più. Leggermente, ho detto leggermente. In modo la mia è abbastanza diversa, cioè nel senso, in questo momento serve un commissario tecnico fortemente rappresentativo, perché in una situazione come questa io sono più per l'allenatore, e anche per l'allenatore di grande carisma. Io però volevo chiedere. Mi scusi, sono assolutamente d'accordo. Cioè sull'impronta che deve avere, certamente forte, perché per poter dialogare con gli altri 20 allenatori della Serie A e magari qualcuno della Serie B, per poter gestire tutta la filiera degli allenatori giovanili, deve avere per forza queste caratteristiche. Sì. Diciamo che la nazionale italiana in questo momento è un po' come se ogni riferimento a persone, cose puramente casuale, la situazione nazionale italiana è un po' come quella della Juventus prima dell'arrivo di Conte. Facciamo così. Volevo chiedere invece ancora questo. Lei in passato ha avuto anche i suoi rapporti con Tavares, anche con Macalli, con lo stesso Lotito, non sono sempre stati di questo tipo. Ha cambiato idea in qualche maniera nei suoi rapporti con queste componenti, oppure no? Abbiamo tutti cambiato un po' idea l'uno nei confronti dell'altro, perché sarebbe anche inopportuno che cambiasse soltanto uno nei confronti della maggioranza. Non è detto. Qui abbiamo fatto tutti un piccolo passo indietro, per ora negli auspici, dovremmo dimostrarlo già da adesso nei fatti, perché ognuno di noi rappresenta intanto una realtà plurale. Io ho 22 società, quindi non è un fatto mio, la Lega non è di mia proprietà. E questo già è un dato che va tenuto in conto. Secondo, nessuno di noi è proprietario di nulla, perché noi gestiamo comunque un bene comune. I campionati sono affidati alle leghe, non sono di proprietà delle leghe, questo è un altro fattore. Noi abbiamo un riferimento che per noi è sempre stato fortissimo dal primo momento in cui sono stato eletto, cioè il nostro pubblico. Noi offriamo un servizio e dobbiamo saper interpretare, saper leggere le esigenze, le aspettative, e quando tu entri in questa dimensione cambi il rapporto con gli altri portatori di interesse. E io sono convinto che nelle diversità, perché siamo e continuiamo a essere molto diversi tra di noi, ognuno può dare un contributo perché questa spettacolare passione funzioni. Grazie. Commissioner. Grazie a voi, come sempre. Andrea Bodi, commissioner della Lega B. Pierluigi? Eccolo. Sentiamo domani? Quando vuoi. Tanto adesso c'è la borsa, poi arriveranno gli ascoltatori, ma ho già l'impressione di sapere cosa diranno, perché l'abbiamo detto, la cosa più impressionante in questo momento, in questa elezione del Presidente federale, è questo enorme scarto che c'è tra l'opinione pubblica tutta da un lato e il movimento calcio dall'altro. È strano, eh? Tu dici la comunicazione... No, io ti dico in 20 secondi, io li ho sentito e mi sono abbastanza convinto assolutamente di quello che si dice, che non si era... Me la posso veramente soltanto una battuta male, però anche nella tua replica di ieri sono venuti i dubbi sul carisma, sulla comunicazione, sulla personalità. Cioè, questo presidente dovrà parlare con Patinì, dovrà parlare esatto. Esattamente come il commissario tecnico dovrà confrontarsi con i grandi allenatori. In questo momento, Pier, la comunicazione tra di noi non è perfetta, come spesso accade. Il concetto lo ripetiamo, serve un commissario tecnico molto rappresentativo, ma a monte serve un presidente federale enormemente rappresentativo. Io legittimamente, credo, noi legittimamente teniamo la nostra posizione e teniamo le nostre perplessità come Abodi, commissioner della Lega di Serie B, della Serie B, tiene la sua posizione. Questo è un dibattito, ce ne potranno essere da qui all'11 agosto. Grazie per Luigi Pardo, ci sentiamo domani. Adesso c'è la borsa, poi gli ascoltatori, 800 24 00 24, numero verde, ciao, a dopo. Seguiteci su Twitter @tutticonvocati. Convocati. Anche De Laurentiis. Beh, Aurelio è un amico, cosa ne pensi? È la riscossa dei vecchi, tu dici, no? No, questo l'hai detto tu, io non lo penso. No, l'ho mica detto io. Senti, ma... fa piacere sentirti. Sì, fa molto piacere anche a me. Ma di Aurelio cosa ne pensi? Buonissimo, una bravissima persona, serio. Anzi, addirittura uno dei, come dire, è uno dei soggetti rock, non tango, rock. Mi sembra che stai parlando come Celentano, mi stai parlando. L'ho fatto così per dire. Sì, sto scherzando. Uomo, sì. Beh, ma adesso dovrei darti da fare. Certo che Prandelli e Abete hanno fatto proprio una figuraccia, sono scappati. E c'era quell'altro bel signore che ha detto che lui non c'entra niente. Sono 8 anni che ha la squadra in mano, non lo so io. Scusami, quale bravo signore. Bertini. Ah. Sì, cosa vuoi, però hanno fatto proprio pure loro una figuraccia, se ne sono scappati come conigli. Lo so, ma ci sono pochi che si prendono le responsabilità, no? Nella vita, pochi. Tu come stai di salute, bene? Ma sì, insomma, dai, cerchiamo di non lamentarci. Io veramente penso molto a questa tua situazione, sono molto contento. Poi per la nazionale adesso bisognerà fare grandi cambiamenti. Sicuramente. Chi mettiamo alla guida? C'è Mancini, c'è Conte, poi c'è anche Guidolin, questo scrivono i giornali. Però bisogna vedere chi il problema anche di natura economica, tu che pensi, no? Non è che si può pensare alle cifre che si sentono dei club, non sono paragonabili per la nazionale. Tu chi preferiresti? Ma io onestamente vorrei sentire... Anche questa novità di Conte non è una roba da poco, è emersa adesso, però io fino al giorno 11 non dico niente, perché figurati te come sarebbe la storia se dovessi dire qualcosa. Sì, lo so, qua ci mettono veramente molto poco. Incominciano, molto poco, niente. Incominciano a bastonare tutti quanti. Sì, sì, sì. E insomma, dai, comunque è fatta. Sto salendo sull'aereo adesso. Va bene, senti, ma ci vediamo. Bene, bene. Ci vediamo allora. Grazie, grazie. Ciao, in bocca al lupo. Ciao, Carlo. Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao, ciao, ciao. Lui era Tavecchio, lui sembrava Moggi. Marisa, Torino, buongiorno. Sì, buongiorno a voi. Volevo intervenire appunto sull'argomento Tavecchio. Ecco, innanzitutto, Marisa, sì. Lei ha sentito a proposito di comunicazione. Bravissimo. Cosa bravissimo. Ha detto Tavecchio sul calcio femminile? Ma infatti, allora, innanzitutto io apro una piccola parentesi, mi sento di dissentire completamente da Pierluigi Pardo, che tra l'altro stimo e mi piace moltissimo giornalisticamente, sì, parlando, ma io ritengo che la comunicazione sia alla base di un qualsiasi rapporto. E lo penso oggi sì. Marisa, allora, per completezza, ascoltiamo insieme che cosa ha detto, credo sia il report del 5 maggio, queste dichiarazioni sono state trasmesse all'interno di report dedicato a Tavecchio, alla sua figura, al suo lavoro alla guida della Lega Nazionale Dilettanti, sul calcio femminile. Noi siamo in questo momento protesi a dare una dignità della donna nel calcio. Ma in che senso, sotto l'aspetto stesso? È perché finora si riteneva che la donna fosse un soggetto handicappato rispetto al maschio, sulla resistenza, sul tempo, sull'espressione anche atletica. Invece abbiamo riscontrato che sono molto simili. Allora, facciamo così, non si è sentita una parte di questo frammento, per ragioni di cronaca e di completezza rimandiamo. Noi siamo in questo momento protesi a dare una dignità anche sotto l'aspetto estetico della donna nel calcio. Ma in che senso sotto l'aspetto estetico? È perché finora si riteneva che la donna fosse un soggetto handicappato rispetto al maschio, sulla resistenza, sul tempo, sull'espressione anche atletica. Invece abbiamo riscontrato che sono molto simili. Dunque, sono molto simili le donne agli uomini, non sono handicappate a giocare a pallone. Marisa? Vabbè, no comment, posso? No, come vuole. No, comment, no, nel comment, senso che sono... come, no, nel senso che, come appunto sottolineavo prima, secondo me la comunicazione è la base veramente di un qualsiasi rapporto, che può essere familiare, scolastico, lavorativo, ma soprattutto mi stupisco che una persona di un certo calibro, di una certa esperienza, di così come viene dipinta, si esprima in questo modo in varie occasioni. Chiusa la parentesi, io credo fondamentalmente, non sono naturalmente un'esperta nel mondo del calcio, ma mi limito veramente a leggere e ascoltare quello che si sente, ma ci vuole un minimo di modernità, secondo me. Non dimentichiamoci che Tavecchio, per esempio, è uno di quelli che si era scontrato con Tomasi, non mi ricordo come Tomasi, si chiama. Damiano Tomasi, ecco. Presidente dell'Associazione Calciatori. Ecco, per esempio, per i piccoli giovani calciatori che devono, lui ritiene che devono rimanere legati alle società col famoso cartellino fino ai 25 anni, quando sappiamo benissimo che tutte le società piccole di periferia, arrivate a un certo punto, giustamente fanno una sorta di selezione e tenendoli legati a loro, ma estraniandoli dal mondo del calcio, non fanno altro che allontanarli da questo magnifico mondo. Quindi ci vuole veramente un minimo di modernità, sinceramente. Mi sento di dire che rispecchia quello che è l'Italia oggi. Dobbiamo veramente liberarci da questi gattopardi, punto. Sì. Non mi sento di dire non, però guardi, non, paradossalmente non mi sembra una questione di età, sul punto della comunicazione invece, e nemmeno di modernità. Addirittura si potrebbe estremizzare sul fronte opposto: in questo momento serve un soggetto in grado di reggere anche un profilo istituzionale che sarà difficile da reggere, perché prima Pardo diceva, e condivido, il prossimo presidente federale, in un momento così delicato del calcio italiano, dovrà essere fortemente rappresentativo, dovrà essere in grado di dialogare appunto con la FIFA, con l'UEFA, con Blatter, che non vedeva l'ora di, e che starà ridendo come un matto, di sbeffeggiarci un'altra volta. Dovrà dialogare con Platini, dovrà dialogare con soggetti di questo tipo, avrà un compito per cui serve un elevato profilo istituzionale, e la mia preoccupazione è proprio anche questa, legata, non è banale, legata all'aspetto del carisma, della comunicazione, della capacità di essere appunto, ripeto, fortemente rappresentativo. I miei dubbi ce li ho e me li tengo, così come chi eleggerà Tavecchio. Io ho fatto una pubblica scommessa con con Maurizio Crosetti, lui dice no, non, a questo punto non è più possibile questa candidatura, vedrai che non sarà eletto. Io sostengo che l'11 di agosto, lunedì sera, 11 agosto, Carlo Tavecchio sarà presidente della Federcalcio. Il resto poi lo scopriremo vivendo, come cantava qualcuno. Stefano da Bologna, buongiorno. Buongiorno, salve. Dica. Sì. Allora, intanto io non ci trovo niente di innovativo, come ha detto il presidente della Lega B, dove dice che praticamente Tavecchio sembrerebbe quasi tra virgolette innovativo, ma a prescindere dalla frase razzista, secondo me ci dimentichiamo un particolare fondamentale di Tavecchio, che è stato secondo me processato, se non sbaglio, 2 o 3 volte, mi corregga se sbaglio, e nessuno ne parla di questo aspetto qui. Perché? Perché Tavecchio purtroppo rappresenta i vecchi ideali italiani e del sport italiano, dove ci si mette d'accordo, ci state zitti, io copro te, tu copri me, e purtroppo andando avanti così finiremo dove siamo finiti tuttora, col calcio, con la politica, tutto quanto. Brutto da dire, ma secondo me è così. Sì. Gente, no, io allora Stefano, su questo ho ricevuto anche molti messaggi. Non è vero che insomma la figura di Carlo Tavecchio è stata passata al setaccio, d'altra parte era impossibile che non fosse così. Non è vero che nessuno ne parla, nessuno ne dice. Sto sotto mano, ma perché è il primo che mi capita in mano, il Corriere della Sera di oggi, in cui c'è questo articolo, Re dei Campi Sintetici, che riesce a dribblare anche gaff e accuse, firma di Paolo Tomaselli, e c'è un passo in cui si scrive che è stato condannato, Tavecchio è stato condannato in passato per piccoli reati fiscali, dirigente 71enne ha ottenuto la riabilitazione, articolo 178 del codice penale, e come sottolinea oggi ha un certificato penale immacolato. Questa è la cronaca. Non è vero che nessuno ne parla di questo discorso, ricevo anche molti messaggi di questo tenore, ma non è vero, ne stiamo parlando tutti quanti, tanto è vero che sono fatti che tutti quanti grosso modo conosciamo. Voglio farvi ascoltare un'altra cosa prima di Salvatore, la provincia di Forlì, 800240024. Voglio farvi ascoltare un'altra cosa, cioè le parole che ha detto Mario Sconcerti nel suo punto. A me il problema, chiudo, sì. Il problema della banana mi ha veramente interessato poco, il razzismo o non razzismo. Conosco Tavecchio da 20 anni almeno e so che non è razzista, ma mi ha preoccupato molto di più l'inadeguatezza che del razzismo. È questo che ci vuole, essere adeguati, ragazzi, cioè cercare di mettere grande spirito di novità, cambiare idee e cambiare attraverso l'esperienza dei professionisti anche il mondo dei giovani. E io ho l'impressione che la chiave di tutto questo discorso, ovviamente quanto ha detto Sconcerti è un po' quello che stavamo dicendo noi, ma la chiave di tutto questo discorso, che per molti aspetti è anche volgare, no? Nelle sue derive, stia in quella parola invece estremamente italiana ed elegante che è adeguatezza. Quella parola che Andrea Agnelli ha pronunciato l'altro giorno, ha parlato di questo. Ma è davvero adeguato Tavecchio ad essere presidente del Federcalcio in questo momento? Ed è questo il domandone. Salvatore, provincia di Forlì, buongiorno. Buongiorno e complimenti per la trasmissione. Grazie. Grazie per la convocazione. Io non avevo sentito le parole di Sconcerti, ma rappresentano esattamente, credo, il sentimento di tutti gli sportivi. La risposta del calcio italiano di fronte alla situazione attuale può essere veramente Tavecchio? Cioè, io non riesco a capire come sia possibile che i presidenti della Serie A, della Serie B, ritengano che la risposta adeguata alla crisi del calcio italiano sia Tavecchio. Cioè, lo trovo sconcertante, proprio sconcertante, vorrei sapere anche la sua opinione. E una piccola chiosa, se si può fare qualcosa per i collegamenti di Pardo, che è piacevole da ascoltare, ma io non riesco mai a sentire. Sì, siamo impegnati con vari istituti di ricerca spaziali per provare a dotare Pardo di un collegamento normale. Noi ci stiamo provando, ma insomma non ci siamo ancora riusciti. Prometto che per la nuova stagione ce la faremo, glielo prometto. Quanto al resto, insomma, c'è questo sospetto, questa idea per cui tutte le componenti siano d'accordo, perché è un accordo tra di loro, tra le varie componenti, sui reciproci interessi sia già stato raggiunto con Tavecchio, mentre sarebbe più difficile raggiungerlo con Albertini, e mi riferisco al potere delle leghe, al fronte dei diritti televisivi, a una logica di spartizione dei poteri che in questo momento è acclarata, ma che è sempre esistita. Non dimentichiamo che insomma, questa stessa è la corrente che parte da Carraro, passando attraverso Abete, per arrivare ora a questo tipo di candidatura. Walter, provincia di Ferrara, buongiorno. Salve Genta, buongiorno. Buongiorno, grazie di avermi convocato. Senta, io la chiamavo per Tavecchio, sì, che c'è un vostro programma che si chiama Giovani Talenti, sì. Io sinceramente rimango un po' basito, questo sarebbe il giovane talento che abbiamo messo come leader della FIGC. Io veramente rimango un po' così, perché anche sentito prima Bodi, mi sembra il solito giochino delle parti, uno guarda il suo orticello. Lo appoggiano comunque anche dopo le gaffe che ha fatto, e sinceramente sento un po' puzza di bruciato, perché mi sembra, dato che ci sia dietro un ritorno economico, perché probabilmente la B sa che da Tavecchio riceverà quei soldi, ma anche che la forse da Albertini non prende. Walter, ma anche la A, non penso che... male, penso male. Non lo so se pensa male, ma comunque sono cose che andremo a verificare in non molto tempo. Però se facciamo ma così, anche la Serie A, Walter, anche la Serie A, questo discorso vale anche per la Serie A. Perché allora, è vero che posso... Della Valle si è dissociato, è vero che la Sampdoria con il neo presidente Ferrero si è dissociata, ma non dimentichiamo che Galliani e la Juventus, la posizione della Juventus e della Roma la conosciamo, ma non dimentichiamo che tutti gli altri della Serie A stanno da quella parte lì. E Zamparini, abbiamo letto ieri le sue parole, no? Carlo, lo sai anche te, perché sicuramente ci sarà un ritorno economico anche sulla spartizione dei diritti TV, su altre convenzioni economiche che stanno dietro al giro d'affari che c'è della Serie A. Ad esempio, ma la mutualità. Non cresceremo mai. Io adesso sono juventino, non voglio prendere le parti di Agnelli, ma anche se non si fa un ripulisti e non si parte con un serio piano industriale, noi continueremo a prendere delle sconfitte contro le squadre del Copenaghen, del Galatasaray, come può essere altre, le nostre figurette in Europa League, cioè, allora non è, alla fine come un gatto che si morde la coda. Mi sembra di essere rimasti fermi all'Italia 90. Però Walter, abbi pazienza, non è stata colpa di Abete se la Juventus è uscita dalla Champions League. Adesso non andiamo alle generalizzazioni estreme. È chiaro, il calcio italiano è in un momento di difficoltà strutturale, però non diciamo che è colpa di questo sistema se la Juventus è uscita dalla Champions League, che è colpa di questo sistema se non è arrivata in finale di Europa League. Questo è veramente estremizzare. Tutti convocati. Nibali, Nibali, Nibali, allora pedala che noi siamo con te. E da Messina al tour più che mai, in Sicilia in giallo tornerai. Nibali, Nibali, detto lo squalo, nuota più forte che puoi. Vedrai che a Parigi alla fine del tour la maglia e i fior saranno tuoi, la maglia e gli onor saranno tuoi. Questo era Dino Zandegu, una volta era velocissimo, adesso ha una gran bella voce. Complimenti al migliore Vincenzo Nibali, un grazie al Teron che riporta tutta l'Italia del ciclismo sul tetto del mondo, lo ha scritto mio amico Pippo Pozzato. Ciao Pippo. Ciao, buon pomeriggio a tutti. Mi sa che la tua candidatura alla presidenta della Federciclo dopo quel Teron scricchiola, No, era virgolettato. Lo so. Senso, lo sa che lo uso in modo ironico, lui mi chiama Polentone, io lo chiamo Terrone. Sì, come è normale nel gioco delle parti. Che stai facendo in questo periodo? Sono qui a casa tranquillo, ho finito l'allenamento, ho finito di pranzare, sono qui tranquillo che ascoltavo un po' di musica. Senti, adesso Vincenzo pensa anche al mondiale, ha detto ma chi lo sa, quello dovrebbe essere un tuo territorio di caccia, quello delle grandi corse in linea. Lui ha detto ma perché no, mi piacciono molto. Ma no, sicuramente al mondiale l'anno scorso ha dimostrato di andare forte anche lui, anche sulle corse di un giorno, quindi ben venga, uno come lui in squadra fa sempre piacere. Poi io devo ritornare a andare forte per guadagnarmi il posto in nazionale per potermi giocare questo mondiale. Senti Pippo, l'altro giorno però su un terreno che conosci bene ha praticamente vinto il Tour de France, la foresta di Arenberg. Ma sì, io, se tu guardi i tweet che ho fatto quel giorno, ho detto tanti, forse non hanno capito bene cosa ha fatto lui oggi, e dalle 2 minuti a 40 a Contador è stata sicuramente, non vincere il tour lì, ma ha dato sicuramente una bella mazzata, perché qualcuno ha detto avrebbe vinto il Contador, From, io penso che può anche essere che Contador andava più forte di lui in salita, però guadagnargli 2 minuti e 40 vincendo con una condizione così... io la vedo veramente difficile, secondo me avrebbe vinto uguale. Mm. E quindi lì ha fatto un capolavoro veramente, veramente eccezionale, non tanto nel staccare Contador, ma io penso nel cavare di ruota, come diciamo noi in gergo, cancellare Sagan nel loro territorio, è stato qualcosa di veramente, veramente impressionante ed eccezionale. Ascolta, adesso a Vincenzo arriveranno addosso molti soldi, molta notorietà, molti rotocalchi, molte interviste. Già ne ho visto oggi i preview di un'intervista a Rachele, sua moglie, su A chi vi racconto Vincenzo, mio campione. È qualcosa che dovrà gestire, perché lui è molto diverso da tutto questo. Sì, beh, sicuramente i soldi c'erano anche prima, non è che sì, non sono arrivati adesso. Sicuramente, sì. No, sicuramente. Lui diciamo che è un po' schivo a queste cose. Abbiamo lo stesso procuratore, mi diceva già la settimana scorsa, fa convincerlo ad andare a fare qualcosa in televisione, destra e sinistra, sarà difficile perché lui non vuole farlo. Io spero che lui invece possa farlo, perché penso che Vincenzo sia un patrimonio del ciclismo italiano. Ed è un patrimonio per tutti noi, perché comunque può portare il ciclismo in alto, come ha già fatto in questo tour, ma può portarlo anche fuori dal mondo del ciclismo, che è un mondo abbastanza di nicchia. Può portarlo fuori e farlo conoscere al pubblico, ed è una cosa che fa bene al ciclismo intero, non solamente a lui. Quindi io spero trovi il tempo per fare anche qualcosa al di fuori del ciclismo, senza perdere la concentrazione che sicuramente lui non perde da qui a fine mondiale. Sì, dovrai dargli due dritte però da questo punto di vista. Tu sei molto più mediatico di Nibali. Sì, però lui deve darmi due dritte su come fare ad andare fuori e stare concentrato quando sei in corsa. Allora. No, ma anche dal punto di vista ciclistico comunque probabilmente il difficile arriva adesso, perché se prima poteva magari correre un po' più coperto, no? Dietro il From, i Contador, eccetera, a questo punto dovrà correre da vincitore del Tour de France. Ma no, io penso che lui ha sempre corso da vincitore e da cannibale, come l'hanno definito in questo tour, perché comunque magari non sempre vincendo, a volte anche attaccando e poi saltando, però è questo che piace alla gente di Vincenzo, quello che è sempre piaciuto è lui è un istintivo in corsa e ragiona poco, cerca di andare all'attacco, e questo è quello che piace alla gente, quello che fa divertire, quindi io penso che lui correrà sempre alla stessa maniera. Sì. Piace alla gente di questo di Nibali, a te cosa piace del Milan per chiudere? Ah, che brutta domanda, domanda di riserva non c'è? No, c'è solo la busta numero 1, la 2 e la 3 le ho perse. Ma niente, dai, siamo partiti già ma col piede sbagliato, però io ho la speranza, che di ritornare ad alti livelli e che la società riesca a mettere in piedi una squadra degna del nome del Milan, perché comunque abbiamo una storia in campionato, in Champions soprattutto, ma la vedo difficile anche quest'anno. Sì, no, il nome intanto è lo stesso, tu e dell'allenatore del Milan, Filippo Pippo, entrambi, quantomeno questo vi accomuna, no? Sì, sicuramente. Speriamo che il nuovo allenatore possa dare una svolta alla squadra. Appena iniziato il lavoro, speriamo di ci prenda un po' le misure e cominciare bene il campionato già da lì. Sì, sarà dura senza giocatori. Ciao Pippo, grazie. A voi. Ciao Filippo Pozzato, grandissimo. Ciao. Allora, vi voglio dire una cosa su Vidal, perché sta parlando Allegri in questo momento. Ha detto che Vidal resta alla Juventus al 100%. Le cose che si sentono e si dicono in giro sono diverse di questo interessamento del Manchester United, si parla da giorni. È stato scritto anche in Cile che c'è un accordo tra il giocatore e il Manchester United, i soldi in ballo sono molti. Poi ci sono le solite leggende metropolitane, Vidal ha già venduto la casa a Torino, e questo e quell'altro. Allora, Allegri dice questo, cioè che Vidal rimane al 100%, io gli credo, ma fino a un certo punto. È solo una mia sensazione, ma questa è. Franco, provincia di Milano, buongiorno. Buongiorno a tutti. Dica. Mi meraviglio come ci si meraviglia di un Tavecchio o di un Razzi, cioè i politici nostri oppure chi sta nelle alte sfere. Ma praticamente per fare lo spazzino chiedono di sapere bene l'inglese. Per fare il politico e andare magari a Bruxelles ci si fa figure da ignoranti, come l'ha fatta Tavecchia, perché non è razzismo, è pura ignoranza. Io mi rifiuto quel discorso lì di sentirlo da un pensionato, un analfabeta, in un bar di provincia. Cioè veramente questo è quello che ci meritiamo, purtroppo. Sì. Cioè, ma guardi, non ho parole. Però c'è una differenza sostanziale, Franco. Adesso possiamo, ovviamente il sentimento può essere ed è certamente condiviso, perché quella buccia di banana non ce la dimenticheremo mai. Possiamo anche fare un mucchio di demagogia su tutto questo, però rimane per me il punto fondamentale, che è quello dell'adeguatezza e di un ruolo istituzionale che in questo momento, no, che in questo momento è sempre stato particolarmente importante, ovviamente, ma in questo momento c'è una persona profondamente rappresentativa, ma non dal punto di vista interno, è il mondo che va in questa direzione. Ho ricordato ieri, ed è un caso emblematico, quello di un multimiliardario americano, Donna Sterling, che è stato sbattuto fuori a calci nel sedere in un giorno dalla lega, da una delle leghe più importanti del mondo, cioè la NBA, National Basketball Association in America, proprietario di una squadra che valeva milioni di dollari. È stato sbattuto fuori dalla lega, dai suoi palazzetti, non potrà più tornarci. È stato costretto a vendere una squadra che valeva una fortuna, e questa decisione è stata presa alla velocità del suono e senza possibilità di repliche. E per frasi disgustose e a sfondo razziale pronunciate, molto peggio probabilmente di quelle di Tavecchio, pronunciate in una conversazione privata intercettata al telefono con una signorina, sua presunta fidanzata, amante o quello che era. Danilo, buongiorno. Buongiorno. Mi dica. Ma niente, questo Tavecchio a me fa pensare a un Vito Cattolfo in giacca e cravatta. Dove vogliamo andare con questi personaggi? È una macchietta, questo va da Blatter e quello si mette a ridere, cioè rendiamoci conto. Questo è tutto parla, dire, no? E questo è tutto cosa dire. Cosa parla oltre l'italiano? Il ciociaro, non lo so. Ma siamo, io non lo so, siamo no, ma non c'è limite al peggio, è una cosa. Sì. Non lo so. Lasciamo stare che cosa parla e che cosa non parla. Io torno al problema di cui sopra, ed è inutile che lo ripeta, insomma la comunicazione è importante e le parole hanno un peso, non è vero che volano, ma restano in situazioni pubbliche e in situazioni di questo tipo. Voglio leggere invece un'altra cosa sempre in chiave azzurra. C'è un altro caso che abbiamo già trattato, ma sul quale vorrei tornare magari nei prossimi giorni, e che riguarda non Donna Sterling ma il basket, perché c'è il caso di Hackett, giocatore che praticamente ha lasciato, ha piantato in asso la nazionale dicendo: sono infortunato, vado via, guardate i miei esami, io qui non voglio tornare. Bene, oggi c'è stata una cosa molto dura, una replica molto dura da parte dei suoi compagni di squadra, dei giocatori della nazionale, che hanno fatto un comunicato in cui sta scritto: Hackett non ha rispettato le regole della nazionale e ha infranto quel codice che c'è tra compagni di squadra. Ci auguriamo che impari dai suoi errori. Venire in nazionale significa rispettare certe regole, tra queste comunicare a tempo debito attraverso lo staff medico del club le proprie condizioni fisiche, presentarsi al raduno della nazionale e lasciare che lo staff medico azzurro possa fare le sue valutazioni, e lui non l'ha fatto. Teniamo a sottolineare, proseguono e concludono i giocatori della nazionale in questo comunicato, a sottolineare che in nazionale nessuno è mai stato costretto a giocare contro la propria volontà. Mantenere sempre un comportamento corretto è il segnale del profondo rispetto che proviamo nei confronti della maglia azzurra, dei compagni e di tutti i professionisti che lavorano intorno alla nazionale. Insomma, un comunicato molto duro nei confronti di Hackett, che Milano ha confermato ma cui verrà ridotto lo stipendio. Insomma, un caso estremamente spinoso. Un altro di quest'estate. Franco Piantanini, autore di questo programma, Pietro Lacorte in regia, Claudio Scattoni in redazione. Ci sentiamo domani alle 2. Ciao.